Poverino, poverino, quanto sei bimbettierino, ma cos'è successo? Cosa succede, quando succede, se succede, se succederà ancora? Poverino, poverino, quanto sei bimbettierino, ma cos'è successo? Questo è il tuo problema, questo è il tuo problema. Poverino, poverino, quanto sei bimbettino, ma cos'è successo? Cosa succede, quando succede, se succederà ancora? Poverino, poverino, quando sei bimbettino, ma cos'è successo?